as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui, il pane e le rose, la trasmissione che oggi, per forza di cose, visto quello che è successo a Bologna venerdì, ve ne sarete tutti quanti accorti, no? Chi la mattina è andato al lavoro, Crumiri, chi la mattina è andato a scuola, vabbè, ci sta, chi è andato in ufficio, chi è stato in giro un po' per Bologna, avrà visto migliaia di metalmeccanici che in sciopero hanno attraversato i viali di Bologna, la Porta Saragozza, siamo arrivati fino in Confindustria e siamo andati in sciopero per il rinnovo del contratto nazionale. Ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, siamo passati da fare sciopero davanti ai cancelli, scioperi articolati a mezz'ora per colpire i padroni nelle fabbriche, che io ho appoggiato a livello nazionale questa scelta e continuo a pensare che sia forse la scelta migliore, però c'è stata un'esigenza a livello nazionale dei metalmeccanici di scendere in strada, protestare, andare davanti a Confindustria, far presente il nostro disagio. Siamo arrivati fino a Confindustria, davanti alla sede, abbiamo protestato, abbiamo cantato, abbiamo urlato contro di loro, una delegazione è stata ricevuta e poi ne parleremo alla fine quello che è stato detto. Comunque niente, è stato un bellissimo sciopero, una bella manifestazione, c'erano tantissimi giovani, tantissime RSU presenti, molti lavoratori, anche molti impiegati, devo dire questo mi ha fatto molto piacere, è stata veramente una bella manifestazione. Abbiamo intervistato una serie di delegati, come facciamo ultimamente, invece di intervistare segretari, funzionari, come facciamo in passato, giusto dare le voci agli operai, delegati di fabbrica, delle varie fabbriche, abbiamo intervistato i primi che abbiamo visto, chiaramente molti erano comunque compagni, conosciuti, amici che spesso ci rilasciano le interviste, abbiamo intervistato così fabbriche a caso, importanti e meno importanti, purtroppo abbiamo intervistato come prima intervista, abbiamo intervistato la Pina, la delegata della Saga Coffee, ex Saga Coffee, che purtroppo ci ha dato una bruttissima notizia, loro hanno aperto il corteo, i compagni della Saga Coffee. Sapete l'avvertenza, eravamo veramente ottimisti, una grande battaglia, pensavamo di averla vinta, invece Cavalieri Bianchi. Chi sono? Sono quei padroni che fanno speculazione, che prendono i soldi e poi alla fine abbandonano gli operai. La GKN è il caso più famoso, ma ce ne sono stati tantissimi in Italia, di questi Cavalieri Bianchi cosiddetti, per non dire frasi più offensive. Ora, niente, ascoltiamoci queste interviste prese dalla strada con i delegati. Oggi la musica che ho messo, le canzoni che ho messo sono state influenzate dal giorno dopo. A Bologna c'è stato un bellissimo festival partito per Bologna, io quasi mai manco, 10 gruppi, andate a vedere la scaletta, diciamo su tutti i gruppi che io impazzisco. Mi dispiace perché dovevo andare a vedere i Queen of Saba, sapete, un gruppo che io metto spesso in radio, siamo stati tra quelli tra i primi a Bologna a mettere i Queen of Saba, adesso sono diventati famosi, però davanti a Partito per Bologna, in cui c'era Bada Bassotti, 99 posti, gli Oppressed, Assalti Frontali, Giuda, Radici nel Cemento, gli Ultimi, anche altri gruppi, insomma, adesso mi sto dimenticando qualcuno, insomma è stato un festival incredibile e non potevo non andare, ecco. Ci ascoltiamo un pezzo che quando l'ho ascoltato, erano anni che non l'ascoltavo, mi sono uscite le lacrime. A dopo con le interviste e poi ci sentiamo per le conclusioni. Allora, siamo qui, la prima persona a cui voglio intervistare sei tu. La Pina di ex Saga Coppi, attualmente Gaggiutech, che ci ha dato ben servizio e ci ha abbandonato con un liquidatore e siamo 131 lavoratori, attualmente senza posto di lavoro. Il socio di minoranza, che erano due soci, il socio di minoranza è voluto rimanere perché lui ci teneva ancora a fare il ferro, perché c'era la parte della plastica che ci ha abbandonato. Quella della lamiera tiene 25 lavoratori assunto come mini faber e il resto rimaniamo 106 con il liquidatore. Attualmente le cose con i nostri funzionari li stiamo facendo bene, con la regione anche, nel senso che chi è con la cassa integrazione, che per un anno e mezzo ce la danno, al momento se mini faber ha bisogno ci richiamano a lavorare, se c'è una mandata lavoriamo, quando finisce ritorniamo in cassa integrazione. La nostra intenzione, come dice il nostro funzionario, è di reindustrializzare l'azienda e lo speriamo in quest'anno in mezzo di cassa integrazione. Purtroppo io e te ci siamo sentiti diverse volte, abbiamo seguito come Palle Rose la vostra vertenza, era anche la nostra. Speravamo che non fossero dei cavalieri bianchi, come li chiamiamo noi, quelli che promettono invece poi fa la sua speculazione. Ci siamo sbagliati. No, nel senso che ci siamo sbagliati anche noi, perché una figura come questo Triulzi, che è quello della plastica, non è stato serio. Invece Mini Faber, che erano i due soci, lui è una persona molto seria ed è una famiglia che tiene ai valori. Per cui lui, lavorando nella montagna da 36 anni, la figura, o metterci la faccia così, non gli andava. Per cui ha ritenuto di voler investire ancora e continuare a stare con noi. E speriamo che riusciamo ad avere più lavoro possibile. Oggi siamo qui in sciopero per il contratto nazionale, ma per voi siete qui anche per dire noi ci siamo e lotteremo fino alla fine. Perché vogliamo lavorare, la nostra dignità non la vogliamo. Siamo qui per il lavoro, non solo per i soldi. Bravissimo, per il lavoro. Grazie mille. Grazie. Ecco qua, un'altra voce autorevole dal mio punto di vista, una grande azienda, siete i nostri vicini, Toyota, Borgo Panigale. Sì, buongiorno a tutte e a tutti, siamo qua in questa grande giornata che ha finalmente riscontrato insomma, l'importanza che merita, nel senso che abbiamo trovato, riscoperto il coraggio di fare azioni anche che purtroppo non eravamo più abituati a fare. Questa ricalca anche il grande bisogno che sottolineiamo sempre, che è quello che il sindacato ha anche una funzione pedagogica, anche di reinsegnare, no, quello che ci siamo dimenticati. Questa manifestazione in particolare vede il protagonismo di tanti ragazzi giovani che ci suonano la sveglia. Anche noi come delegati di lungo corso, mi viene da dire, vecchiotti, stagionati, e questo è un grande momento, insomma, motivo di soddisfazione. Perché alla fine ci ricordiamo sempre che siamo più bravi a farci l'elenco dei difetti che a farci quello dei pregi. Quindi avanti al lavoro, alla lotta, e insomma andiamo a prenderci questo contratto collettivo. Allora, noi abbiamo scioperato entrambi con scioperi articolati, no? L'abbiamo fatti, abbiamo fatto uno sciopero per fare male alle aziende, per far sì che riaprissero il tavolo, che scendessero a compromessi, a mediassero in certo modo. Fino adesso ci siamo riusciti. Oggi è l'inizio di una nuova fase, da quello che ho capito, perché siamo qui, sciopero generale, tutti quanti insieme, manifestazione. Siamo di nuovo qui, a Porta Saragozza. Come la vedi tu questa linea, questa idea di cambiare le modalità di lotte? Perché comunque eravamo abbastanza convinti, no, sull'articolato. Stavo dicendo bene, appunto, no? E le persone, i ragazzi ci suonano la sveglia, noi siamo più bravi a farci l'elenco dei difetti che quello dei pregi. Siamo ancora capaci di fare le cose come facevano, no, quelli che ci hanno portato fino a qui, quindi non dobbiamo dimenticarcelo, non dobbiamo avere paura. Le aziende addirittura comprendono il fatto dell'inesperimento della nostra lotta, non per forza lo condividono, anzi per niente, ma capiscono e riconoscono il nostro ruolo. Noi non dobbiamo avere paura di esercitarlo, mai. Ok, grazie mille, tornai. Ciao. Un'altra voce della strada, un'altra voce di noi che siamo qui a scioperare. Ciao, Marco Garofoli, RSU Ducati Energia. Siamo qui finalmente per tentare di riaprire questo benedetto tavolo delle trattative, in modo da iniziare quantomeno il dialogo, cosa che per adesso è totalmente assente, e quindi altre 8 ore, dubito che siano le ultime. Ci dobbiamo essere preparati anche per aprile, maggio, giugno e quant'altro, però ci siamo sempre sotto la pioggia, ma lo stesso. Niente. Come va da voi al lavoro? Da noi è un periodo abbastanza tranquillo, effettivamente. Fortunatamente non ci sono casi di lavoro che prevedono la cassa integrazione, quindi bene o male i rapporti sono decenti, quindi per adesso è un periodo abbastanza tranquillo, quantomeno internamente. Ok, siamo contenti. Siamo qui, continueremo la battaglia. Assolutamente, non si può fare. Dopo lo sciopero provinciale, cosa ci aspetta? Nazionale, a questo punto, il passo dopo. Speriamo che dovremmo andare a oltranza, secondo me. Sì, non dobbiamo. Speriamo bene, qua. Speriamo che De Palma capisca. Speriamo, dai, va bene. Okay, ciao. Voci dalla manifestazione, ecco di qua di nuovo, vecchia conoscenza nostra. Presentati. Salve, sono Mimmo Lisi. Ok. Stiamo parlando ormai, come tipo, mi ricordo manco più come si chiama la vostra azienda, ex Made in Marelli. Ora Tecnomeccanica. Ecco, Tecnomeccanica. Come va? Oggi siete qui, finalmente scioperate con noi. Ricordiamo a tutti che siete Federmeccanica, anche voi. Meno male. Meno male, dopo battaglie, dopo tanti anni siete tra quelli del gruppo Fiat, poi adesso non siete più gruppo Fiat, gruppo Stellantis, spero voi avete il contatto nazionale, siete qui in sciopero. Come va? Ma in azienda diciamo che al momento non va molto bene, poi è anche normale perché c'è una ristrutturazione in atto, quindi ci sono delle difficoltà che speriamo di superare nella seconda metà dell'anno. Lo sciopero, contatto nazionale? No, lo sciopero, devo dire la verità, è molto sentito, per fortuna. Siamo ex Marelli, quindi per fortuna è sentito, perché è, e l'unico aumento che vedevamo nelle buste paghe, quindi tutti ci tengono a far sì che ci sia questo benedetto aumento nelle buste paghe, perché si fa fatica a arrivare a fine mese, allora, lavorando. Questa è la nostra esigenza, ma siamo qui anche per il lavoro, oltre per il salario e per i diritti. Ma sicuramente sì, perché poi senza lavoro non si campa, quindi siamo qui per la nostra dignità, per cercare di lavorare, portare a casa il nostro stipendio e aiutare l'Italia a passare questi momenti un po' bui. Molto bui. Grazie Mimmo. Grazie, grazie a te. Lamplav. Scusate, ma Lello Signoriello, che è sempre con noi, non possiamo non intervistarlo anche questa volta. Sciopero il 28 marzo, senza di te non è sciopero. Beh, adesso non esageriamo. Ah, sono un compagno che sta in piazza quando c'è bisogno di stare in piazza e cerca di portare i lavoratori consapevoli alla richiesta dei loro diritti. Ci troviamo in una fase in cui la crisi economica attanaglia i salari dei lavoratori, è una questione che viene anche riconosciuta dal punto di vista delle istituzioni. I salari dei lavoratori italiani sono i più bassi come potere d'acquisto rispetto a tutti quelli della Comunità Europea. I padroni aumentano i loro profitti, compresi quelli della nostra azienda, e però non li condividono con chi li produce. Certo. Questa cosa chiama vendetta. E siamo qui anche per questo. Certo, soprattutto per i diritti, per recuperare anche, attenzione, questa è una cosa fondamentale, le nuove leve, c'è un ricambio generazionale nel mondo del lavoro e questo assottiglia sempre di più i diritti, che quelli come me che ormai hanno una certa età sono quasi diventati privilegi. Quindi la nostra lotta bisogna anche che sia quella del mantenimento dei diritti, che li faccia riconoscere alle nuove generazioni che non hanno mai avuto una cultura sindacale forte come la nostra, dei tempi in cui c'era un forte sindacato. Anche questo è il nostro ruolo. Grazie mille Lello. Ciao, buona giornata e buon sciopero. Eccoci qua. Non potevamo che non intervistare anche il delegato dell'azienda più grande, la numero uno a Bologna, Lamborghini Auto. Grazie mille. Oggi siamo qua in lotta per cercare di riconquistare il tavolo sindacale. È fondamentale questo sciopero, grandissima l'adesione anche in fabbrica, sono tutti fuori. Noi stiamo lottando con le unghie e con i denti per riconquistare ciò che ci spetta e quindi continueremo, andremo avanti fino a quando non riusciremo a tenere il tavolo e finalmente il contratto che meritiamo tutte e tutti. Secondo te come dobbiamo andare avanti? Cosa dobbiamo fare? Che tipo di scioperi? Come dobbiamo scioperare? Non basteranno queste 8 ore, ne serviranno anche in aprile, ma noi saremo pronti, saremo sulle piazze, saremo nelle strade, saremo nelle officine e faremo tutto quello che è necessario per riconquistare ciò che ci spetta. Grazie mille. Grazie a voi. Dai quartieri mangeremo. affronta l'esigenza della grande distribuzione. Questo mondo è il lavoro che ci ha portato anni, ora è arretrato. All'interesse di evitare che i lavoratori e lavoratrici possano rivendicare i propri diritti. È la storia di tantissime persone che come me da anni lavorano con contratti precari al limite della dignità. Calcio e pugni e taffe lunghi, 9 dollari per noi. Una voce vale rose, noi non ce ne andremo mai, mai, non ce ne andremo mai. Pane e rose, pane e rose, pane e rose, libertà. Pane e rose, pane e rose, pane e rose, libertà. Pane e rose, pane e rose, pane e rose, libertà. Pane e rose, pane e rose, pane e rose, dignità. Pane e rose e dignità. Gli ultimi ci hanno dedicato questa canzone, chiaramente non alla trasmissione del Pane e Rose, anche se noi siamo loro fan, purtroppo loro non sono nostri fan, ma questa canzone ci hanno dedicata a noi, al Meccanici, l'hanno dedicata ai compagni della GKN, il 5 d'aprile, ricordo a tutti, la manifestazione con corteo, cioè comunque il festival della working class, di letteratura della working class a Firenze, il GKN. Mi raccomando, partecipate tutti, parteciperemo a tutte queste manifestazioni il 5 aprile. Ora, avete sentito i compagni, le interviste, e cosa dire, purtroppo la delegazione è tornata, dopo che siamo andati avanti con Confindustria, abbiamo fatto un bordello, adesso siamo andati sulla pagina del Pane Rose, oltre alla puntata in podcast troverete un po' di immagini della manifestazione, vedrete, insomma, abbiamo fatto tanto rumore, però purtroppo questi padroni non vogliono tirare fuori una lira. Veramente siamo in una situazione veramente difficile, in cui la situazione geopolitica, come abbiamo spesso detto, la situazione di crisi, la situazione delle sanzioni, ancora più a complicare, questi già sono dei tirchi che, come ha detto anche il signor Elio, fanno profitti, se li intascano, se li mettono in saccoccia. Figuriamoci in una situazione in cui 4 aziende su 10 sono in cassa integrazione, questi quando ci sono i profitti se li intascano, quando c'è la crisi ce la fanno pagare a noi. Questa è una storia che si ripete ogni volta. Noi continueremo ad andare avanti, purtroppo giugno sta arrivando, in cui abbiamo comunque una clausola di salvaguardia che prevede un aumento, molto probabilmente loro vorranno vedere cosa succede a giugno, ma noi non siamo disposti a questo, vogliamo chiuderla prima e ci saranno delle forzature. Spero che il nostro segretario nazionale De Palma abbia il coraggio di riesca a convincere anche la FIM e la WILM, cioè sia i meccanici di Cisle e WILM, di andare un po' più sul, insomma, sul pesante, su scioperi. Ci vorrebbe uno sciopero a oltranza qui, un periodo di scioperi forti per mettere in difficoltà, mix articolati, ma con manifestazione, con blocchi davanti ai cancelli. Bisogna esagerare, perché se arriviamo a giugno la situazione diventerà ancora più drammatica, perché si rischia che ci danno il contentino e molto probabilmente potremo perdere dei pezzi lungo la strada. Oggi i lavoratori stanno scioperando, i lavoratori capiscono il problema salariale, che è principale per loro ma non solo, si rendono conto che il costo della vita è sempre in aumento. Ricordiamo a tutti che l'inflazione ha colpito tantissimi lavoratori, e l'inflazione non colpisce il ceto alto, ma colpisce il ceto medio e il ceto dei lavoratori dipendenti soprattutto. È una tassa bastarda l'inflazione, che veramente fa male, colpisce i padri di famiglia, le famiglie, tutti i lavoratori single, chi vive, insomma, chi c'è l'affitto, chi c'è il mutuo, colpisce veramente tantissimo. Noi dobbiamo portarlo a casa questo contratto a tutti i costi, dobbiamo essere forti, non dobbiamo cedere. Ci sono situazioni veramente di crisi, lo dobbiamo fare anche per quelli che stanno lottando. Dobbiamo cercare di convincere non solo Confindustria a firmare questo contratto, ma dobbiamo fare una battaglia più grande. Noi Metalmeccanici abbiamo anche un'esigenza in questo momento di dire che non è possibile accettare una cosa, che si spendono tutti questi miliardi per riarmare. Cioè, noi Metalmeccanici non siamo per il riarmo. Ricordo a tutti che le industrie di armi in Italia contano con l'1%, il 2% massimo con tutto l'indotto. noi non siamo per le armi portano guerra, la guerra porta a distruzione e gli operai metalmeccanici finiscono nelle trincee, non finiscono a lavorare a costruire le armi. Finiremo nelle trincee come è successo agli operai metalmeccanici ucraini che oggi stanno morendo sulle trincee. Questo per noi è inaccettabile. Dunque siamo contro il riarmo, contro lo sperpero del riarmo, siamo perché i soldi vengono utilizzati per l'industria, sì, per la sanità, per le scuole pubbliche, questa è la cosa importante, per i posti di lavoro, per salvare le aziende che devono essere nazionalizzate sotto il controllo dell'operaio. Questo è il nostro appello che facciamo come il Pane Rose, e facciamo l'appello a tutti i sindacati e a tutti i lavoratori di unirsi in questa lotta, che non è solo una lotta per il salariale, ma una lotta molto più grande, che deve vedere coinvolti i sindacati confederali, i sindacati di base e tutti, e contro il riarmo e se ne vadino a casa tutti. Questo deve essere il nostro, perché questi non sono in grado di farci vivere in maniera normale e di poter darci la possibilità di avere il pane e anche le rose, dignità e libertà. Con questo appello vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Salve a tutti, sempre fieri. Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar, entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.